Siamo con Pierpaolo Di Mino di Terra Nullius per parlare del suo libro Ma l'amor mio non muore, che sarà presentato al Salone Off di Torino il 12 maggio. Pierpaolo, ben trovato. Grazie, ciao. Lo raccontiamo brevemente? Sì, allora a Torino presentiamo l'anteprima di questo libro. Sono 24 storie di donne, da donne mitologiche a donne storiche. Si parte da Eva e si arriva fino a Josephine Baker, passando per passionarie, rivoluzionarie. Ma queste 24 donne, appunto, alcune mitologiche, Medea, Didone, la Maddalena, eccetera, eccetera. Altre storiche, più o meno storiche, anche nel periodo storico abbiamo Marianne che non esiste propriamente come figure incarnate, ci servono a parlare di desiderio, insomma, sono raccontate come durante una lezione fatta da un antico maestro che ci dice che cos'è il desiderio, che cos'è l'amore, cos'è questa spinta verso la vita. Mi è sembrato, io ho scritto questo libro, ho scritto le parole di questo libro e le ha illustrate Veronica Leffe, abbiamo lasciato moltissimo spazio all'immagine, questa è una parte predominante. È un libro che ci è sembrato dover parlare del femminile in questa chiave, perché questo libro ci sembra leggermente spento, non penso che sia solamente una nostra sensazione, quindi richiamarci a quello che è più di un valore morale, ma proprio un'esigenza esistenziale ci sembrava fondamentale. Senti, com'era nata la spinta iniziale a scriverlo? Una lunghissima genesi, perché in verità è nato a teatro con Tamara Bartolini e Michele Barogna durante un Red Reading Sì. numero 5, se non sbaglio addirittura 5 anni fa, che si intitolava appunto Ma l'amor mio non muore. In quel periodo con Tamara abbiamo fatto tantissime cose insieme, facevo un po' il grillo parlante sul palco con lei, e portai 5 di queste donne, illustrate sempre da Veronica, e da lì poi è nato lo stimolo a proseguire questo percorso, prima con questo libro che poi si è ulteriormente complicato, perché questo libro in verità è un capitolo del libro azzurro, che è un libro che non esiste, fa parte di un progetto a sua volta ancora più grande che si chiama Lo Splendore, e diciamo che perché questo libro immaginario poi prende corpo attraverso una serie di eventi fatti di piccoli libricini, ma soprattutto di mostre, di diciamo così, happening. Andremo, diciamo che a Torino è l'anteprima di un tour che faremo in giro in maniere di volta in volta differenti, proprio per portare queste immagini e le parole che sono legate a queste immagini. Insomma, diciamo che dietro c'è un grosso, cioè, ci trasportiamo questo spirito teatrale, questo cercare di incarnare il più possibile la parola. Sì. Iniziamo adesso a Torino e diciamo, geneticamente siamo ancora legati all'esperienza con cui tutto è nato, con Tamara e con Michele. Sì. Pierpaolo, la scelta di questi ritratti femminili? La scelta di questi ritratti femminili, appunto, è stata portata, è condotta sul filo del desiderio. È un po' una riscrittura. Adesso uso questa parola nella tradizione ebraica, la Haggadah, cioè prendiamo delle storie molto note e scaviamo all'interno di quelle storie per trovargli un altro significato. Ti faccio l'esempio: Eva, l'Eva che sta dentro la mente di tutti, sia del credente che del non credente, è la donna che ha peccato, che ci ha portato a questo mondo fatto di miseria e di schifo. La nostra Eva invece è la grande occasione per Adamo di essere intelligente. Raccontiamo un Adamo che era tanto felice, tanto bravo, sapeva nominare tutti gli animali, ma non sapeva vivere, quindi Dio pensa, facciamo qualcosa di serio per questo poraccio, inventiamo Eva che magari lo fa peccare, lo fa diventare un adulto, gli fa fare qualcosa di buono, reinventiamo Didone, che è un'altra invenzione importante di Virgilio, in cui ci si inventa questa donna che muore per amore di un pazzo che, perché ha una grande causa, ha diritto a fare del male. Ci inventiamo una Didone che invece combina quel suicidio per dimostrare che Enea è un uomo pericoloso, un uomo malvagio. Sono riscritture, sono vere e proprie riscritture che cambiano, certe volte risemantizzano il senso di quelle storie. non è tutto inventato, è ancora Medea già ancora per i greci di epoca storica era un mistero perché una donna avesse compiuto quel terribile crimine. Noi lo rispieghiamo un pochettino come lo percepivano le civiltà pre-greche, in cui Medea era una figura positiva. Ancora i greci dovevano andare nel tempio di Medea vicino a quello di Giunone. È una riscrittura che tende a dare un senso diverso a queste figure, sperando che ci si possa riattrovare un altro senso, appunto, del desiderio, dell'amore e del femminile. Ecco, hai parlato di amore nell'accezione del desiderio tra due persone. È questa la lettura principale? Sicuramente sì, anche se in prima linea ci sono sempre queste donne, quello che sta per sfondo è il loro amore, ovviamente non in maniera univoca per un altro uomo, ci sta anche l'amore per la filosofia, per esempio nel personaggio della Schumann, c'è l'amore per la rivoluzione per Marianne, c'è l'amore per la guerra di Giovanna d'Arco. L'amore, ovviamente, quando si parla di amore come desiderio, è ovvio che non per forza si concretizza con una storia di coppia. Ci sono tantissimi tipi di amore, ci sta l'amicizia, ci sta l'amore che implica la fedeltà a una causa. L'amore, ecco, diciamo che l'amore non vince tutto, questa è la grande affermazione spaventosa di Virgilio, perché l'amore, diciamo che è qualcosa che mantiene intatto il tutto, perché è veramente pluriformo. Per dire un'altra cosa, insomma, così, colta, è un perverso polimorfo di Freud per eccellenza. Pierpaolo, per maggiori informazioni, ci dai tutti i riferimenti web? Sì, allora io suggerisco di cercare la pagina del Libro Azzurro. Oggi uscirà anche un'anteprima con la presentazione di Pasquale Donnarumma su Terra Nullius. Quindi ci potete cercare ovviamente anche su Terra Nullius. E sì, io sono di Questo. sicuro che escono Ok, queste due cose, poi perfetto. qualcos'altro in giro si trova magari. E ripetiamo anche l'appuntamento con l'anteprima e alcune letture proprio a cura di Terra Nullius al Salone Hoff a Torino il 12 maggio. Pierpaolo, un abbraccio, un in bocca al lupo Ringrazio. e a presto. A presto, ti abbraccio, ciao. Ciao. Ciao.